Ladri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. Ed eccoci qua, buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, i Padri Eterni, con voi ogni settimana per parlare di padri, per parlare ai padri. Stiamo facendo il nostro programma in situazione remota, quindi Matteo non è qua in studio con me, anche perché io sono a casa mia e Matteo è a casa sua. Ciao Matteo! Ciao Fede, buona domenica! Ma senti che bella voce fresca, hai fatto vacanza, vero, in questi giorni? Si sente? Fede, fra molti equilibrismi familiari, ma devo dire che la cosa più bella è che sono stati veramente questi, insomma, della scorsa settimana di Pasqua, davvero giorni di vacanza, senza compiti da fare, schede da stampare, computer da collegare, vere e proprie vacanze in quarantena. E quindi, insomma, vacanze particolari, perché appunto non c'era neanche il tempo della scuola. Sono stati anche giorni particolari, giorni che, insomma, la stessa attualità, no, ci porta a guardare avanti, a immaginarci come sarà la scuola nei prossimi mesi, come sarà l'estate, come sarà il prossimo anno. Sono stati giorni anche che forse da padre giorni anche tristi, no? C'è stato comunque il ricordo di Gianni Rodari, di cui tante volte abbiamo parlato qui, c'è stata la perdita di Luis Sepúlveda, che, insomma, grande amico nostro, con le sue letture, quante notti, no, ci ha accompagnato con i nostri figli. Anche oggi però vogliamo aprire la nostra puntata con una storia, e come stiamo facendo ormai da diverse settimane, storie di padri e storie di figli. La storia di oggi ci porta all'interno degli ospedali, ci porta proprio a stretto contatto con l'emergenza medica, come tante volte abbiamo fatto. Però è una storia che ci ha incuriosito, no? Ha incuriosito molto anche i giornali. Sei fratelli in corsia contro il coronavirus. L'insegnamento di papà ci spinge a proseguire. Questo è il titolo della Stampa, per raccontare la storia di questi fratelli, tutti medici, appunto in onore del padre. E con noi c'è una delle figlie. Diamo il benvenuto a Barbara Tizzani, che è geriatra al pronto soccorso di Rivoli. Siamo nella città metropolitana di Torino. Ciao Barbara, buona domenica. Ciao a tutti, buona domenica a tutti. Benvenuta Barbara. Grazie. Barbara, cosa si prova a essere in sei, a fare lo stesso lavoro di papà? Ma diciamo che è stata come una scelta così, legata proprio all'esempio che ha dato sempre a noi nostro padre. È stata una scelta voluta, legata al fatto che avevamo profonda ammirazione per nostro padre. Nostro padre partiva al mattino, andava a lavorare, tornava a casa, ci sembrava un po' come un supereroe, insomma. Barbara, tu sei geriatra, no? Quindi hai a che fare. Io sono geriatra. Quindi hai a che fare per lavoro proprio con i nostri padri, con i nostri nonni, no? Mi chiedevo, dato che più di una volta, come abbiamo detto qualche puntata fa, ci è capitato di leggere cose come questa malattia uccide solo i vecchi o solo gli anziani, come se questo fosse una specie di male minore per alcuni. Tu invece come li vedi di fronte a questa malattia? Cioè, con quale spirito la affrontano? Ma io ho scelto di fare geriatria proprio perché adoravo mio nonno, e per cui io, diciamo, che ho un occhio di riguardo per le persone anziane. Però lavorando in pronto soccorso ha a che fare con tutti i tipi di persone, più anziani, meno anziani. Questa patologia colpisce tutti, diciamo che colpisce ed è anche più dannosa quando ci sono delle persone anziane, in quanto hanno tante patologie associate, per cui capita un pochino quello. Io credo che ogni anziano abbia comunque il diritto di essere curato nella maniera migliore, indipendentemente dall'età. E soprattutto quello che cerchiamo di fare in questo periodo per queste persone è cercare di migliorare la qualità di vita all'interno degli ospedali, perché non dimentichiamoci che il grande dramma è che queste persone arrivano in ospedale completamente da sole, in quanto con le nuove disposizioni, proprio per preservare anche i parenti oltre che i pazienti, non si fanno intervenire i parenti, per cui queste persone partono dal proprio domicilio, arrivano da sole in ospedale e per tutta la durata della loro patologia sono lasciate da sole, non da sole in quanto ci siamo noi personale che cerchiamo in ogni modo di migliorare la loro qualità di vita. Per cui di fronte a questa malattia sono anche cambiati i nostri comportamenti, oltre al fatto di essere dei medici, cercare di curare, diciamo, la loro patologia, è anche subentrato questi nuovi accorgimenti legati anche alla tecnologia, per cui li facciamo comunicare coi parenti tramite i cosiddetti tablet, che sono diventati abbastanza usuali, questa nuova disposizione in questi giorni sui giornali. Certo. Barbara, prima hai usato una parola che mette sempre un po' i brividi, no? Quando si parla di genitori e figli, che è la parola ammirazione, cioè ammiravamo nostro papà. Come si conquista l'ammirazione? Te lo sei chiesto, lo hai capito? Quello che aveva mio padre, che secondo me non è una cosa usuale, è innanzitutto il fatto che comunque era una persona con un profondo senso del dovere. Noi in questo frangente lavoriamo, anche per noi è normale dover andare a lavorare malgrado le difficoltà, perché nostro padre ci ha insegnato il senso del dovere, e poi il fatto di essere una persona profondamente retta, e diciamo che pur essendo una persona molto chiusa, come forse era una volta per i padri di una volta, che erano presenti con le proprie attenzioni, però poi è stato molto più sul lavoro, giocavano un po' meno rispetto forse ai padri di adesso, è stato un padre che si è sempre comportato in un modo che non destava assolutamente adito al fatto di dire non fa del proprio meglio, non si comporta bene. Noi lo adoravamo proprio per questo, era uno che in più ogni tanto raccontava quello che faceva, e era la persona che assolutamente non lavorava per i soldi, molto spesso andava dai pazienti che non avevano il modo di poter pagare le visite e lavorava gratuitamente per queste persone, per cui noi lo ammiravamo e speravamo di poter diventare un giorno una persona come lui, e quello forse è legato anche questo al fatto che abbiamo deciso di fare medicina. Barbara, da tuo padre, se tu dovessi dire, hai la sensazione di aver appreso più il mestiere o più il rispetto per le persone? E anche quanti sacrifici vi sta chiedendo proprio dal punto di vista familiare la vostra scelta professionale? Allora, io penso che da mio padre quello che ho ammirato soprattutto era il modo che aveva di trattare le persone, perché io sono andata... appena ho conseguito la laurea sono andata a fare anche il praticantato con lui. Lui era uno che diceva che per poter insegnare le cose bisognava saperle fare, per cui anche adesso quando io devo dire a un infermiere di fare una cosa devo saperla fare, se no non riuscirei a agire nella maniera migliore. E poi aveva questa capacità incredibile di trattare con le persone con il massimo rispetto. Mi ricordo, che può essere un aneddoto sciocco, però mi è rimasto molto impresso, che per esempio quando visitava le suore, le visitava in modo da non metterle a proprio agio, quindi cercava di scoprirle il meno possibile e di riuscire ad interagire con loro nella maniera migliore. Insomma, lui aveva questo enorme rispetto nei confronti delle persone, e poi era una persona buona. Quindi credo che queste siano le cose che ho ammirato maggiormente lui, e spero di riuscire a utilizzare nel mio comportamento, nel mio modo di lavorare. Barbara, grazie davvero per aver condiviso con noi questa tua e questa vostra storia, perché è veramente una storia di famiglia. Credo sia anche curioso, no? Guardarsi di fianco e trovare altri 5 fratelli che fanno la stessa professione. C'è un qualcosa di bizzarro sicuramente, che però è normale per voi, perché appunto con questo grande esempio che avete avuto è stata una scelta naturale, quasi, come ben ci hai spiegato. Grazie, in bocca al lupo per il tuo e il vostro lavoro. È stato un piacere. Buona grazie, domenica. Grazie Barbara. Noi ci fermiamo, è il momento del traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. Sono gli occhi dei bambini che fanno girare il mondo. Sono i sogni dei bambini che fanno tornare il sole. Sono gli occhi dei bambini che a volte fanno male. Sono i sogni dei bambini che fanno grande il Natale. E che fanno primavera ogni anno, ed ogni anno ci ricordano l'età e faticano a studiare poesie, ma cantano pubblicità. Sono gli occhi dei bambini che... Gli occhi dei bambini di Alex Britti ci accompagna verso il prossimo ospite. Matteo, insomma, credo che gli occhi dei nostri figli in questi giorni, in queste settimane, siano occhi particolari, no? Perché occhi di stupore, di meraviglia. Io mi accorgo anche con i miei, che comunque sono grandi, uno è adolescente, una più di 20 anni, fa già l'università, che però hanno uno sguardo diverso verso le cose e verso le persone anche. Cioè, probabilmente si prendono tempi nuovi anche per fermarsi, per capire, per guardare forse anche le sfumature. Non so se è una cosa che hai notato anche con le tue figlie. Ma certo, Fede, ma aggiungerei anche occhi che ci possono essere utili proprio a noi padri, se ci guardiamo attraverso i loro, perché può essere un esercizio davvero efficace anche per capire come ci stiamo comportando in questo tempo così speciale e difficile. E gli occhi dei bambini li conosce davvero molto bene il nostro ospite, è un piacere averlo con noi, anche un amico, è Francesco Tonucci, è un pedagogista, ricercatore delle CNR e ideatore e responsabile di quel bellissimo progetto che si chiama La Città dei Bambini. Ciao Francesco, buona domenica. Buona domenica anche a voi. Allora, ti sono venuti a pescare fin dalla Spagna, hai rilasciato una bellissima intervista su El País proprio su questo argomento, no? Il tempo a casa dei bambini, un tempo non solo da occupare con i compiti, un tempo nuovo, l'abbiamo detto tante volte, un tempo diverso, un tempo che ci può lasciare qualcosa anche adesso che ci avvieremo forse in una quasi normalità o comunque in una nuova libertà. Dacci dei consigli a noi padri, guardando avanti, a cosa dobbiamo stare attenti? Questa è la speranza che è nascosta dietro la crisi, come diceva Einstein. La crisi può essere una benedizione sia per le persone che per i paesi, perché la crisi può portare dei cambiamenti. Allora la sfida è quella di scommettere su questa esperienza così paradossale di stare chiusi in casa, che non era mai successo, insomma. Io ricordo l'oscuramento dei tempi di guerra, i miei primi ricordi sono quelli, che un po' assomigliava, però insomma non eravamo isolati e chiusi dentro casa. A una certa ora della sera bisognava oscurare le finestre per non far vedere agli aerei che bombardavano le nostre città. Quindi direi che la prima cosa che mi è venuta spontanea a pensare è, pensando specialmente alla scuola, ma insieme alla famiglia, questa è la prima volta che mi sembra che scuola e famiglia sono costretti a lavorare insieme. In una situazione di conflitto che stiamo vivendo negli ultimi anni fra queste due agenzie educative, mi sembra che varrebbe la pena approfittarne. Allora, i bambini devono stare in casa, quindi il loro mondo si è ridotto alla loro casa. Allora, mi è sembrato normale, spontaneo e ovvio comunque, dire perché non studiamo la casa, cioè non facciamo diventare la casa il laboratorio dove la scuola invita i bambini a lavorare, sì, chiedendo ai genitori di essere degli assistenti di laboratorio, in qualche modo dei collaboratori della scuola, e pensando che la casa nasconde molte cose interessanti e che possono essere lette anche dal punto di vista scolastico, e non penso solo alla scuola primaria, penso anche a tutta la scuola dell'obbligo, perché poi dipende da che tipo di analisi vogliamo fare. Allora pensavo, che ne so, la scuola invita i bambini a fare una lavatrice, a stendere i panni, a stirarli, a stirare i più semplici perlomeno, naturalmente con l'aiuto dei genitori, osservando le cose, poi con la scuola ci si riflette sopra cosa hanno capito, cosa hanno scoperto, quali sono i meccanismi per cui un panno si può stirare grazie al calore, qual è il meccanismo, eccetera. un altro grande, così come possono essere interessanti fare delle operazioni che i anche le bambine di oggi, ma specialmente i bambini, non hanno mai pensato di fare, come attaccarsi un bottone, per esempio. Certo. Io sono convinto che queste sono cose che danno una gran soddisfazione ai bambini che lo fanno e permettono anche di fare delle riflessioni se poi gli insegnanti sono capaci di orientarli e di far nascere una discussione tra di loro. Ma noi padri in particolare sembriamo quasi più preoccupati di dare una specie di continuità, no, al tempo della scuola, anziché interrogarci invece, come lei stava dicendo, sui bisogni veri, sui desideri concreti delle bambine e dei bambini, a cui la scuola manca soprattutto, dovremmo dirlo forse anche, no, come possibilità di incontro con altre bambine e altri bambini. Esatto. E perché, infatti, perché non ci rendiamo conto di questo? Per questo dico che varrebbe la pena capire i limiti, cioè a noi stanno arrivando molti messaggi dei bambini, perché noi abbiamo riattivato i nostri consigli dei bambini nelle città che aderiscono al progetto La Città dei Bambini. Io la prima cosa che ho pensato è dire ai nostri referenti: riconvocate virtualmente i consigli dei bambini, perché mi sembrava assurdo che si chiedesse ai pedagogisti di dire cosa deve fare la scuola, agli psicologi cosa devono fare i genitori, nessuno pensava di chiamare i bambini. Certo. E chiedere a loro che cosa volevano e che cosa stavano provando. Allora si sono riconvocati. Quello che viene fuori con un'evidenza enorme è proprio quello che lei stava dicendo, cioè che ai bambini mancano i compagni, non mancano né i compiti né le lezioni. Allora, una volta capito questo, la scuola dovrebbe interrogarsi sulla sua, perché non ci sarebbe bisogno di andare in una scuola che costa così tanto per tante ore al giorno e per tanti giorni alla settimana e per tanti mesi all'anno e per tanti anni per stare con i compagni, perché basterebbe uscire di casa, incontrarsi sul marciapiede, incontrarsi in piazza e giocare insieme. Allora, se c'è la scuola deve avere qualche altra finalità. La finalità che noi abbiamo sempre pensato, anche legata alla pedagogia Frenea, a tutto il movimento di cooperazione educativa dove stiamo lavorando da tanti anni, è che il vero contenuto scolastico deve essere il mondo dei bambini. I bambini devono portare il loro mondo a scuola e lavorarci sopra. Allora, in questo caso, siccome c'è una situazione forzosa in cui il mondo dei bambini si è ridotto alla casa, secondo me, se la scuola ha il coraggio di approfittare di questo per fare questa nuova sperimentazione, potrebbe poi capire che quando tornerà ad aprirsi il mondo dei bambini, quello sarà il tema. Certo. L'altra cosa che mi sembrava interessante proporre, per esempio, che i bambini con i loro genitori potessero ricostruire la loro storia attraverso le fotografie, quindi la storia dentro i cassetti, tirar fuori le fotografie oppure tirarle fuori dai cassetti virtuali delle memorie dei nostri cellulari e rileggere con i figli la storia da quando sono nati ad oggi. E sicuramente io questo ci ho pensato perché la mia nipotina, che ha 12 anni, all'inizio di questa clausura mi ha chiamato e mi ha detto: nonno, mi mandi le foto di quando ero piccola. E allora io per 10 giorni, perché a 12 anni, le ho mandato ogni giorno un'annata delle sue foto con WeTransfer, perché pesano parecchio. Allora, questo mi è sembrato una bella cosa, perché i bambini così rileggono la loro storia ed è un'attività di storia. Certo, poi assolutamente storia, ma c'è il diario ed è un po' quella resilienza creativa di cui abbiamo parlato anche in altre puntate, no? Comunque che ti porta a questo tempo nuovo a prenderti cura di te, degli altri e di quelle che in altri momenti avremmo definito dettagli, invece poi sono sostanza, perché fanno relazione, fanno emozione, fanno identità. Francesco, noi ti ringraziamo davvero, ci diamo però appuntamento a qualche settimana, perché credo che si dovrà ragionare molto anche su come le nostre città dovranno cambiare in vista di questa vita nuova che ci aspetta nei prossimi mesi. Grazie davvero. Ci vediamo di vista per un po', ma poi ci ritroviamo ogni tanto. Grazie Francesco, buona domenica. Grazie. Ciao. Noi ci fermiamo adesso, al momento del meteo, la pubblicità, poi ancora qua con i Padri Eterni. padri eterni. C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco sarà a colori. L'estate che passa in fretta, l'estate che torna ancora, e i giochi messi da parte per una chitarra nuova. Sempre così sincera. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Angeli ballano il rock, ora tu non sei un sogno. Ancora buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, i padri eterni. Padri eterni che, insomma, entriamo in questa seconda metà della puntata, lo facciamo con Edoardo Bennato e la sua Viva la mamma. Mamma che, Matteo, celebriamo in ogni puntata noi qui, vero? Ma guarda Fede, per fortuna che ci sono le mamme, non ci stancheremo mai di dirlo, soprattutto in questo periodo peraltro di quarantena in cui siamo tutti a casa, nella gestione dei figli e soprattutto nella gestione scolastica, devo dire che le mamme rimangono fondamentali. E la mamma è un grande specchio in questi video che abbiamo trovato in rete, dove c'è un papà che si mette in gioco, si racconta, ma c'è sempre questa mamma dietro che appunto diventa una sorta di cartina di tornasole del nostro agire. E video divertenti perché lui si mette in gioco come attore, perché è un bravissimo attore, ma soprattutto si mette in gioco come padre. Diamo il benvenuto a Giovanni Scifoni. Ciao Giovanni, buona domenica. Ciao, buona domenica a tutti. Ciao, ciao. Ciao, eccoci. Giovanni. Ci fai fare una figura un po' così a noi padri, con i tuoi video? Ma qui raccontiamo solo un certo genere di padri, non tutti, solo quelli un po' così, no? Invece noi siamo padri migliori, moderni, che abbiamo perfettamente equiparato i ruoli, che sappiamo perfettamente distribuire tutto in modo equo, la chat di classe, una settimana la faccio io, una settimana la fai te. Cioè, in realtà non è così come la racconto io, no? Giusto? Bravo. Mica tanto, no? È proprio così invece. C'è questa madre, questa deactonia, questo personaggio anche così che incombe nelle nostre vite. Voi l'avete parlato, è un personaggio anche inquietante, no? Questa super madre che è ovunque, che controlla tutto e che però pretenderebbe che invece non fosse così, no? Cioè la madre poi si lamenta, mia moglie quantomeno, no? Cioè si lamenta del fatto che dovrei essere io indipendente, dovrei io essere quello che gestisce quanto è da fare, eccetera, però poi non si fida, quindi poi ti controlla tutto e non va bene niente, quindi siamo da capo a zero. E quindi sì, no, ma nei video un po' raccontiamo questa storia qui, no? Raccontiamo questo mondo un po' anche sconclusionato, cioè il padre oggi di fatto, no? E si trova anche in un mondo un po' diverso, un po' strano, non c'è più il padre padrone di un tempo, no? Il padre quello edipico, quello non esiste più, una figura scomparsa di cui non abbiamo neanche nostalgia, tra l'altro, no? E grazie a Dio è scomparso. Però poi qual è il padre oggi? Cioè qual è la domanda? Cioè i figli di oggi, di che padre chiedono? Qual è la domanda di padre? Allora il padre oggi si trova un po' smarrito, no? Qual è la figura che deve avere, chi deve essere? Giovanni, ma i tuoi video sono davvero un'ode a noi padri imperfetti, no? Ai padri imperfetti con tutti i loro difetti, ecco, che però sì, sono presenti. Ecco sì. Nel video sulla festa del papà mi ha colpito soprattutto quel passaggio, no? Quando tua figlia cerca di spiegarti la lezione di storia e il fratello la ferma dicendole: Cecilia, ferma, il papà non ce la può fare, sta mettendo il sale nell'acqua. Cioè, ecco, noi siamo davvero così. Cioè, il multitasking è davvero una caratteristica prevalentemente delle mamme, o un po' ci marciamo su questa cosa? Allora, ci marciamo da morire. Io personalmente ci marcio da morire, proprio, cioè ne faccio il mio cavallo di battaglia. Non posso, sto pensando in questo momento, non posso parlare con te. Per esempio, però è anche vero, cioè mia moglie pretende, io vabbè faccio lavoro di concetto, no? Devo pensare, devo farmi le idee, no? Devo scrivere i testi, gli spettacoli, le cose. E mia moglie sempre dice: ma mentre pensi, non puoi piegare i panni? Ma mentre telefoni al produttore, cose, non puoi fare la stoviglia? No, non ce la faccio, no, beh, amore mio, non ce la faccio. Preferisco andare a dormire alle 4 di notte e fare la lavastoviglie dopo, quando ho finito, ma farle insieme non ce la posso fare, non mi dispiace. Siamo quasi perfetti. No, ma per fortuna siamo orgogliosamente imperfetti. Ascoltiamoci un estratto da uno dei tuoi video, appunto, che hai caricato su YouTube in questi anni. Oh, grande madre, ci presentiamo a te, noi umili figli, a chiedere soccorso. Abbiamo chiesto a padre, ma... Ma non è stato l'altezza, lo so. Venite a me, o mia creature, e madre asciugherà ogni vostra lacrima. Perché viviamo l'epoca... Vieni anche tu, figlio mio. Dell'evaporazione del padre. Terrorizzato dalla propria evaporazione, il maschio procreatore vaga smarrito alla ricerca di un nuovo ruolo. E quindi c'è il padre amico, c'è il padre urlatore. Non è possibile. C'è il padre retorico. Due sole cose posso lasciarti in eredità, figlio: radici e ali. C'è il padre animatore, c'è il padre isolato. E poi c'è il padre che c'è. Che non evapora, ma gradualmente, senza paura, tramonta, perché sa che dal proprio tramonto sorgeranno nuovi soli. Che significa? Poi chiediamo a mamma. E questa era Giovanni, appunto, alle prese con la sua quotidianità. Ma Giovanni, in quanto padre, quanto ti diverti a realizzare questi video con i tuoi tre figli? Ma guarda, allora, divertimento è una parola un po' strana, no? Non si sa bene quando ci si diverte, perché poi ci litiga come maschi a fare sta roba. Cioè, tu sì, ovviamente ci divertiamo perché poi è divertente farli, però poi è anche motivo di litigio, perché ovviamente io rendo casa un disastro, perché per fare l'inquadratura che voi vedete è ordinata, cioè l'inquadratura ha questo potere magico, no? Che circoscrive l'ambito che stai riprendendo, che il resto non si vede, no? Quindi devo prendere tutti i cadaveri che ci sono nella zona e spostarli nell'altra stanza, no? E quindi la discarica, cioè io faccio un casino quando faccio questi video, mi ammazzo in cacchia. Poi si fa tardi, no, per farli, i miei figli rimangono svegli fino alle 2-3 di notte a farti video, quindi a loro gli pare vero. Ci credo. Ringraziamo Giovanni Scifoni, vi ricordiamolo, sul web, in Facebook e su YouTube, andate a cercare i suoi video. Complimenti anche Giovanni per l'interpretazione, ti abbiamo visto in Doc, ha interpretato questo neuropsichiatra, sì, infantile, insomma una bellissima parte. Complimenti davvero. Ciao, salutaci tutti i tuoi ragazzi. Ciao, buona domenica. Ciao Giovanni, ciao. Grazie, buona domenica. Olly e Benji, una sigla che è impossibile non cantare. Forse Matteo, tu lo guardavi, a te non piace il calcio, ce l'hai detto, insomma, a più riprese, ma Olly e Benji da bambino li guardavi o nemmeno quello? Fede, io non è che lo guardavo, io lo guardo, perché stanno trasmettendo le repliche anche in questi giorni. E chissà se lo guarda anche lui. Marco, tu lo guardi o lo guardavi Olly e Benji? È diventato, è diventato anche un libro, Olly e Benji, quindi l'ho anche letto ultimamente. Io ero Olly, non so voi. No, io mi alternavo, giocavo da solo, quindi in entrambi i ruoli. Diamo il benvenuto a Marco Cattaneo, giornalista sportivo di Sky Sport, uno dei volti, una delle voci più amate appunto legate al mondo del calcio, ma anche scrittore di libri per ragazzi, e in queste settimane ha pubblicato un bellissimo libro, un ebook intitolato La nostra partita. Marco, qual è questa nostra partita? Ma è la partita che stiamo giocando tutti quanti in questo momento, e è inutile ricordare chi sia l'avversario. Ho provato a immaginarla per spiegarla ai ragazzi, partendo dai miei figli, come fosse una partita di calcio in cui ognuno deve fare il suo, bisogna giocare di squadra con un linguaggio molto semplice e diretto, e l'ho disegnata per diletto mentre i miei figli facevano i compiti. E poi ho trovato, tra l'altro, sul telefonino c'è la possibilità di montare dei filmati con un programma semplice, l'ho trasformato in un filmato che è andato in onda su Sky. Dopodiché mi ha chiamato Rizzoli, con il quale sono in contatto quotidiano per una cosa che stiamo facendo, e mi hanno proposto di trasformarlo in un ebook con questa storia raccontata e disegnata da me ai bambini, e una serie di suggerimenti e attività legate al calcio da suggerire ai bambini in questo periodo, da inventare lo slogan per la squadra del cuore a disegnare se stessi mentre si fa una rovesciata. E niente, quindi è uscito ed è gratuito per tutti i bambini che lo vogliono scaricare. Marco, nel tuo passaggio hai detto una cosa importante, cioè volevo spiegare il coronavirus ai miei figli, e quindi mi è venuta l'idea, ma tu ogni cosa che tu spieghi ai tuoi figli usi il calcio come metafora? No, beh, lo sport aiuta sicuramente, perché ci sono tanti concetti legati al mondo dello sport che poi è facile trasferire a tutte le cose della nostra vita, soprattutto a loro che hanno bisogno di un linguaggio, no, molto semplice, chiaro, diretto. E facendo tutti sport, seguendo lo sport, trasmette lo sport stesso l'idea sia del gioco di squadra, dell'impegno individuale, dell'avversario da affrontare con rispetto, lealtà, da non sottovalutare ma da rispettare, cercando di sconfiggere nei suoi punti deboli. E quindi sono tutte cose che poi è facile, no, trasferire alle cose della vita che loro poco alla volta stanno imparando, ed erano molto facili anche ad associare a questo tipo di partita che stiamo giocando adesso. Marco, ma infatti il tuo libro è pieno di messaggi positivi, no? Alcuni ce li stavi dicendo: non bisogna sottovalutare l'avversario, dobbiamo rispettare le regole. Ma uno dei messaggi più belli, direi, per me, che mi ha colpito di più, è proprio questo fatto che siamo tutti nella stessa squadra. E poi, in questo senso, questo virus diventare anche in qualche modo un'opportunità per ricordarci appunto che facciamo tutti parte dello stesso pianeta, dello stesso ecosistema, che non ci sono muri o barriere nemmeno tra padri e figli, ma si tratta solamente di imparare a giocare meglio insieme. Ma guarda, io spero tanto di sì, e spero che non ce ne si dimentichi dopo 3 giorni da quando questa partita sarà vinta, e spero che ci lascerà degli insegnamenti che invece ci arricchiranno e renderanno il mondo che abitiamo migliore, soprattutto nelle relazioni tra di noi. Ho letto un'intervista molto bella di Crosetti di Repubblica a Gianluca Vialli, che diceva: io spero che, tu parlavi di barriere, di muri, no? Io spero che dopo tutto questo non ci saranno muri e barriere più alte, ma ci saranno tavoli più lunghi dove ospitare tutti quanti, dove fare squadra, no? Che è quello che stiamo dicendo adesso, come stiamo facendo adesso squadra, torneremo a farla, io spero, anche quando la partita da giocare non ci sarà più, e ci saranno partite più semplici, meno dolorose, meno traumatiche, ma sempre partite da giocare tutti insieme. E quindi spero sì che venga colto il senso di tutto quello che stiamo affrontando e stiamo vivendo in questo momento. Io fanno, perché adesso sto giocando a calcio con i bambini, un po' arranco, sì, a proposito di calcio. Mi sembra il minimo, un po' di coerenza. La nostra partita di Marco Cattaneo, tireremo un calcio anche al virus e vinceremo noi. Un ebook è gratuito, tra l'altro, facilmente scaricabile, messo a disposizione per tutti i lettori. Marco, prima di salutarci, sfruttiamo la tua competenza. Ti ho chiesto di preparare 5 consigli. Insomma, i nostri figli e nostre figlie hanno voglia di sport, hanno voglia di fare sport, ma manca anche lo sport da guardare. Però questa può essere una grande occasione per fare un ripassone di alcuni momenti salienti della storia dello sport. Ci vuoi consigliare veramente 4 o 5 cose da andare a rivedere insieme, padri e figli? A te. Allora, aprite YouTube. La prima cosa è, in onore a te, la tua città, Albertone Tomba, cioè il più grande di tutti. Vai. Ne parlavo giusto l'altro giorno ai miei figli. Tutte le domeniche in cui si puntava la sveglia quando eravamo ragazzi, perché c'era la prima manche dello slalom di Tomba e poi si organizzava il pranzo per la seconda. Quanto è vero. Tomba, io Mamma, io suggerirei due cose. La prima, che ho visto che ha fatto ridere i più piccoli, quando Tomba vince la Coppa del Mondo 95 e scende in mutande per festeggiare il trionfo, perché questo era Albertone nostro. Ma la gara più esaltante, con la telecronaca poi di Bruno Gattai, che era uno fantastico su Monte Carlo, che raccontava le discese di Alberto, e quella di Lech, digitate Lech, Austria 1994, quando Tomba praticamente sembra essere uscito di pista e fa quello che noi definiremmo la scaletta, no? Per rientrare in pista e rimettersi in carreggiata, sembra che abbia perso 18 secondi, in realtà vince lo stesso la gara, ed era una furia quando scendeva. Ok, la prima è questa. Marco, ti fermo un attimo, scusa, lancio il traffico perché è l'ora e poi ti rimbecchiamo subito. Stelli, va bene. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Aiutiamo. Il Sole 24 Ore, insieme a Radio 24 e Radio Cor, sostiene le strutture ospedaliere sul territorio impegnate nell'affrontare l'emergenza coronavirus. L'ospedale di Brescia ha bisogno di te e per noi è la notizia più importante di oggi. L'ASST Spedali Civili di Brescia, con i suoi medici e tutto il suo personale, sta lavorando senza sosta per affrontare il Covid-19. Aiuta anche tu con una donazione straordinaria per affrontare tempestivamente questa emergenza. Per tutte le info, s24ore.it/aiutiamo. Padri Eterni. Padri Eterni, con noi ancora Marco Cattan, autore dell'ebook La nostra partita, tireremo un calcio anche al virus e vinceremo noi, però ci sta dando 5 consigli, 5 eventi sportivi da riguardare insieme padri e figli, un grande ripassone di storia dello sport. Marco, secondo consiglio, secondo indirizzo di YouTube da andare a cercare. Guarda, se prima la facevo per rispetto anche dei confronti, se tu sei della Virtus o della Fortitudo? Virtus. Ecco, io dell'Olimpia. Quindi, visto che stiamo parlando di rivincite, di vittorie, di imprese, suggerisco di risentire gli ultimi 5 minuti di Milano-Ares Salonicco. L'Olimpia era la Tretter, 1986. Milano aveva perso in Coppa dei Campioni di 31 all'andata in Grecia, sembrava impossibile dunque per qualificarsi, doveva vincere di 32, vinse di 34 punti e gli ultimi minuti sono stratosferici, emozionanti, telecronaca di Tullio Lauro, bellissimi. Questa è la seconda. La terza, sarà per un po' deformazione professionale, ma associo gli eventi anche alle grandi telecronache e quindi suggerisco anche Andiamo a vincere di Galeazzi. Seul 1988, il due con, cioè gli Abbagnale nella gara di canottaggio alle Olimpiadi vincono loro e c'ho gli ultimi 200 metri con la telecronaca di Galeazzi. Andiamo a vincere i tedeschi, la Germania dell'Est, così bellissima che cercare di montare, ma vinciamo noi. E questo è il terzo. Il quarto, e questa è la storia di sport che più ho raccontato ai miei figli, sono le notti magiche dell'Italia 90, certo. E quindi partirei da Italia-Austria 1-0 dal gol di Totò Schillaci, qua ci vuole il sottofondo, la colonna sonora di un'estate italiana di Bennato e Nannini, quindi prima si insegna quella e poi si rivedono tutti i gol di Schillaci al Mondiale del 1990, con tanto di lacrime dopo Italia-Argentina. Assolutamente. E l'ultimo, sono tutte cose che hanno segnato me. L'altro giorno ho fatto rivedere loro la Coppa Davis del 1990. C'era Paolino Canè, anche lui genio e sregolatezza, aveva il turbo rovescio, no? Che era infallibile. Giocò contro Vilander, una partita talmente lunga che fu sospesa la domenica sera e poi ripresa lunedì dopo a Cagliari. Sprecò un sacco di match point e vinse 7-5 al quinto. Sempre telecronaca di Galeazzi, se digitate Italia-Svezia 1990 Coppa Davis, vi beccate tutto l'ultimo set ed è veramente emozionante. Questi sono i 5 consigli che mi sento di dare. sappiamo cosa fare oggi. Grazie davvero a Marco Cattaneo per essere stato qua con noi, il Padre Eterni. Ciao, ciao, ciao, Matteo, ciao, ciao. Grazie Marco. And talk in the past and not the present tense. And watch this hurting feeling disappear like it was common sense. It was a fine idea at the time. Now it's a breeze. E ci abbiamo verso la chiusura di questa puntata, lo facciamo sbagliando perché lo facciamo con un grande inno all'errore. Tu sai quanto mi piaccia questo elogio all'errore e al fallimento, Matteo, no? Quanto non si dica abbastanza alle bambine e bambine, alle ragazze, a scuole, fuori da scuola, che comunque sbagliare è educativo, sbagliare è sano, sbagliare non è essere un fallito, ma avere un'occasione in più per ripartire migliori. Ma tra l'altro, Fede, guarda, mi sembra che in questo periodo così difficile per tutti ci riscopriamo maggiormente indulgenti nei confronti dei nostri errori, nei confronti dei nostri sbagli, nei confronti di quelli che poi non sono nient'altro che i nostri percorsi di vita. Eh sì, perché comunque siamo più indulgenti, perché un po' cambiano le regole anche all'interno della casa, no? Le regole di relazioni, insomma, anche noi padri con i nostri figli in questo periodo, no? Cambiano davvero un po' i rapporti, siamo a volte più indulgenti, a volte pretendiamo di più, a volte pretendiamo di meno. È un tempo nuovo anche in questo, e proprio in quest'ottica abbiamo letto un bellissimo articolo sul Corriere della Sera intitolato "Sbagliando si impara, ecco come spiegare gli errori ai ragazzi e ai genitori", e protagonista dell'articolo è un saggio di Massimiano Bucchi, che è un sociologo e un professore ordinario di sociologia della scienza e di comunicazione, scienze tecniche all'Università degli Studi di Trento, un bravissimo divulgatore, e appunto ha fatto un libro lo scorso anno, il suo libro più recente, intitolato "Sbagliare da professionisti, storie di errori e fallimenti memorabili", edito da Rizzoli. Ciao Massimiano, buona domenica. Buona domenica a voi. Ma un padre, secondo te, può dire a un figlio che sbagliare è importante, anzi è quasi doveroso? Sbagliare è un momento di conoscenza, è un modo che noi abbiamo, se lo vogliamo ascoltare, di capire noi stessi. Purtroppo a volte lo vogliamo capire e a volte no, e quindi come tutti i proverbi, sbagliando si impara, è vero a metà, qualche volta sì, qualche volta no, dipende da quanto siamo pronti a riconoscere il nostro errore, talvolta preferiamo negarlo. E la scienza è storia di errori, vero? Beh, certo, la scienza ha anche un suo modo, come si dice, di razionalizzare, cioè di rendere l'errore più produttivo, più romantico, che è questa bella parola che si chiama serendipità, che fu introdotta da un grande scrittore, Horace Walpole, raccontando una fiaba esotica, e serendipità sarebbe l'esempio tipico, è la penicillina, ma a me piace molto anche quello di Pasteur, che fece questa grande scoperta sul colera dei polli quando lui era in vacanza, perché gli assistenti si dimenticarono delle provette aperte, e grazie a questo lui riuscì a capire come poteva funzionare la vaccinazione dal colera dei polli. E quindi diciamo, anche nella scienza, come dappertutto, si sbaglia. A volte si sbaglia in modo costruttivo, altre volte purtroppo no. Massimiano, senti, a me capita spesso di citare uno dei più grandi filosofi della contemporaneità, che è il maestro Yoda di Star Wars, no? Quando dice a Luke Skywalker e ricordati che il fallimento è il tuo migliore maestro. Ma del resto è una cosa che diceva anche Einstein, che diceva anche Gandhi. Perché noi genitori, noi padri in particolare, temiamo così tanto l'errore o il fallimento dei nostri figli? Cioè, cercando di tenerli al riparo dalla possibilità di sbagliare, non li teniamo in realtà anche al riparo dalla possibilità di diventare autonomi e di crescere? Ma probabilmente sì, nel senso che, appunto, come dicevo, l'errore è un momento di conoscenza e quindi come tale ognuno lo dovrebbe vivere in prima persona. Questo naturalmente vale per i singoli, vale per le famiglie, vale per le aziende. Io per esempio nel mio libro racconto la storia del fallimento della Kodak, no? Un'azienda sì. che si identificava, cioè la fotografia era la Kodak, il 90% delle pellicole venute nel mondo erano della Kodak. E la Kodak, che pure inventò, pochi lo sanno, la prima macchina fotografica digitale negli anni 70, la inventò un dipendente della Kodak, però capì che la fotografia digitale sarebbe diventata importante, ma non che avrebbe rimpiazzato interamente o in gran parte il business della fotografia. E quindi è un tipico esempio di errore che, appunto, a proposito della relazione tra genitori e figli, l'errore di proiettare nel futuro quello che sappiamo sul passato. Cioè noi tendiamo sempre a partire dalle nostre certezze, e quindi quello che ha funzionato, quello che per la nostra generazione magari andava bene, ci aspettiamo che vada bene anche per i nostri figli, come fece la Kodak, no? Le persone hanno sempre stampato le foto, magari le scatteranno in digitale, ma poi prima o poi verranno da noi a stamparle. E questo è una tipica fonte di errore, cioè dare per scontato che ci sia una continuità sempre. Ma Massimiliano, secondo te raccontare la scienza attraverso anche gli errori è un modo più umano, più diretto, più accessibile per far arrivare la scienza ai nostri ragazzi? Ma io penso di sì, anche perché, se non altro, diciamo, scoprire che anche i più grandi hanno sbagliato, come Einstein, il quale fece degli errori scientifici, come è noto, ma quello che lui considerava il più grande errore, che io racconto nel libro, della sua vita, fu in realtà un errore politico: fu firmare la lettera al presidente degli Stati Uniti con cui lui suggeriva di dar vita al progetto che poi diventerà la prima bomba atomica. Quindi diciamo, da un lato questo sì, rende gli scienziati e le scienziate più umani, dall'altro lato ci fa capire che nessuno, io racconto per esempio il flop dei Google Glass, no? Cioè nemmeno le più grandi aziende, quelle che ne hanno azzeccate tante, che hanno tutti i mezzi per fare gli studi possibili, eppure hanno fatto dei flop clamorosi. Quindi diciamo, l'errore ci accomuna tutti, anche se, e questo è interessante, poi non sbagliamo tutti allo stesso modo. È vero, mi sembra una bellissima considerazione finale. Grazie davvero Massimiliano Bucchi per averci fatto fare questo viaggio negli errori, che poi è un viaggio nella scienza, ma che poi è un viaggio nella nostra storia. Buona domenica Massimiliano, grazie. Grazie a voi, buona domenica. Grazie Massimiliano. E questo grazie lo allarghiamo anche a tutta la squadra di Radio 24, Daniele Di Trani, che con noi ha scritto la puntata, alle ragazze e ragazzi di Radio Immaginaria che anche oggi ci hanno dato supporto. Grazie a voi, come sempre, per essere stati in nostra compagnia. Radio24.it, il nostro sito, da lì potrete scaricare il podcast, riascoltare la puntata, e tutti i link relativi agli argomenti che abbiamo trattato li potete ritrovare nella nostra pagina Facebook, I Padri Eterni di Radio 24. Ciao Matteo, buona settimana. Ciao Fede, buona settimana di quarantena a te. E l'appuntamento, come sempre, a domenica prossima alle 11. Ciao! Ciao!